passeggero, mi sorprenderai le spalle con il soffio del mistero. Quando tu mi sei distante, tutto sembra soffocante, ma lo so che non è grave. Quando resto solo in letto, non è più la mia astronave. Sei sparita nello specchio, tu sei ritornata neve, io ritornerò ranocchio. La tua forza come il vento aprirà le mie finestre, lascerai sul pavimento le bugie, le tue promesse, mentre il buio è un labirinto di una trappola sensuale che diventa un gioco spinto che alla fine mi fa male. Tutto questo non è grave, è romantico e banale, non sei più la mia astronave. Oh darling, parcheggiata nel giardino, e la polizia spaziale che non trova mai le prove su quel ladro del destino. Non c'è più la mia astronave sullo schermo del computer, e rossetti e medicine, le mutande di pullover voleranno giù nel water. Tremolante lascerò la luce accesa, e questo amore stravagante brucia il fuoco dell'attesa di aspettarti fino a tardi, affilando le mie armi. E se troverò il coraggio, io non voglio masturbarmi con i quando e con i dove, devo solo rassegnarmi, non sei più la mia astronave. Oh darling, non sei più darling. Oh darling, non sei più la mia astronave che sfondava quel soffitto e passando dalla luna mi portava fino a Giove senza muovermi dal letto. Tutto questo non è grave, è una piccola ferita. Nel celeste del soffitto resta un buco senza chiave, l'astronave della vita.